La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. L'articolo 95 disciplina i rapporti fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i singoli ministri. Il punto fondamentale è fissato già nel primo comma. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Ecco il punto. L'Italia è una repubblica parlamentare. Come repubblica parlamentare, i cittadini eleggono il Parlamento. E la sovranità rappresentativa risiede nel Parlamento. A questo punto il governo verrà nominato dal Parlamento, per cui il governo, una volta formato, come abbiamo già visto secondo gli articoli 92 e 93, dovrà giurare dinanzi al Presidente della Repubblica e poi riceverà la fiducia parlamentare. Ecco allora che, per quanto le leggi elettorali degli ultimi anni abbiano cominciato a far indicare in scheda il candidato Premier, non è assolutamente vero che noi siamo entrati in una repubblica presidenziale dove il popolo indica direttamente il primo ministro, Stati Uniti d'America o Francia. Ecco allora che il Presidente del Consiglio resta un primus inter pares ed ecco soprattutto che il Presidente del Consiglio deve essere scelto dal Presidente della Repubblica e votato fiduciariamente dal Parlamento. Negli ultimi anni abbiamo assistito a vivaci polemiche giornalistiche quando sono stati indicati presidenti del Consiglio che non erano stati votati direttamente dal popolo. È stato il caso, ad esempio, di Monti, di Letta, ancora di Renzi. Tuttavia è un falso problema dal punto di vista costituzionale, perché il cittadino non va mai a votare per un determinato governo, ma vota sempre per un determinato partito. Il governo viene formato in Parlamento, questa è la Repubblica parlamentare. Ecco allora che il Presidente della Repubblica dovrà individuare non il candidato designato dai partiti anche in sede elettorale, ma dovrà indicare come Presidente del Consiglio il candidato che può ricevere la fiducia parlamentare. Ricordando quanto è accaduto nel 2013, è emblematico proprio pensare il passaggio di mano fra Bersani, che era il candidato del partito di maggioranza relativa, che invece non era riuscito a raccogliere il consenso necessario a formare il governo e quindi il governo è stato formato da altra figura politica, cioè Enrico Letta. Eppure a febbraio 2013 avevamo votato con un'indicazione in scheda come Bersani candidato Presidente del Consiglio. Ma questa è una mera indicazione elettorale, non è costituzionalmente dovuta, perché siamo una repubblica parlamentare e non presidenziale. Questione curiosa è la sfiducia al singolo ministro, cioè se nell'ambito dell'andamento delle vicende politiche è possibile cambiare la compagine ministeriale. Questo accade spessissimo per volontà del Presidente del Consiglio, consigliato anche dal Presidente della Repubblica, quando abbiamo i cosiddetti rimpasti, cioè la modificazione di alcuni ministeri e lo spostamento di alcuni ministri. Invece, questione più particolare dal punto di vista giuridico, è quando il Presidente del Consiglio vuole sfiduciare un ministro che si oppone a questa sfiducia. Il caso è accaduto nel 1996 col ministro della Giustizia di allora, il ministro Mancuso, che venne sfiduciato dal Parlamento, ma dopo questa sfiducia individuale fece ricorso alla Corte Costituzionale sulla legittimità di questo potere, sostenendo che il governo dovesse cadere tutto assieme. La Corte Costituzionale invece ha distinto, ammettendo che può esserci anche la sfiducia al singolo ministro, ove sia individuata una specifica responsabilità ministeriale del suo dicastero nell'ambito dell'attività di governo.